I numeri sono 6-9-1-11-11-1, 5-18-5-16-12-1, 16-9-12-1-18-1. Quale correlazione possono avere con le lettere dell'alfabeto? Capitela per decifrare la frase nascosta.